6 titolari di discoteche e locali notturni su 10 dichiarano 0 euro. E solo 4 su 10 ammettono un reddito superiore ai 100.000 euro. Si tratta di un settore a forte rischio evasivo, sottolineano all'Agenzia delle Entrate, con 44 milioni di tasse evase in un anno e mezzo. La movida da Napoli alla Riviera Romagnola rischia di costare cara ai contribuenti onesti. I controlli dell'Agenzia delle Entrate nelle discoteche d'Italia hanno fatto emergere, infatti, al fianco di onesti operatori del settore, anche parecchi furbetti, come spiega Massimo Varriale, capo Ufficio studi di settore. Il dato qui del dichiarato è sicuramente lascia perplessi, perché i ricavi complessivi dichiarati sono circa 460 milioni di euro per 2.500 soggetti, ma il settore in totale, questi 2.500 soggetti, presentano una perdita di 20 milioni di euro, quindi cioè, come se il settore non avesse redditività. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.